Io non sto fra l'inno e le bandiere, fra le pecore in processione, che ha la faccia come il sedere ed in tasca una soluzione, con chi ci predica la morale e chi decide cose normale, normale. Agli amole buone di professione e chi dice resta al tuo posto, che la mia unica vocazione è essere solo un cane sciolto. Scelgo da me dove voglio stare e tu continua pure a sbagliare. Le vostre regole truccate, le verità già masticate, mi dai una favola, sì, ma voi cambio l'anima e non bussare alla mia porta perché non mi farò trovare. Non sto con chi ha smesso di pensare, con chi dice non mi lamento e ha paura anche solo immaginare di sfidare i mulini a vento, con chi ripete piccola mia, beata te che mangi pane utopia. Io non seguo le regole del branco, al guinzaglio una vita intera, io l'ho già visto quello sguardo, gli occhi dei cani alla catena e a comando scodinzolare e alla luna abbaia. E le coscienze immacolate, i vostri sogni appuntate, vi dai una favola, sì, ma voi cambio l'anima e non bussare alla mia porta perché non mi farò trovare. Hey.